Se sentite il suono che indica che state pendendo a destra, toccate il lato sinistro dello schermo. Se sentite che state pendendo a sinistra, toccate il lato destro dello schermo. È così che manterrete l'equilibrio sul ponte.